24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano le conclusioni della G20 a Cannes, con l'Europa che non ottiene gli attesi finanziamenti dai partner mondiali, ma solo impegni futuri. Tempi duri per l'Italia, da venerdì ufficialmente sottoposta a un piano di monitoraggio del Fondo Monetario Internazionale. Le borse reagiscono male alla conclusione del summit. Oggi vi parleremo anche di come la crisi abbia curiosi effetti nel mondo della diplomazia e vi porteremo in Bielorussia per raccontarvi un processo a un attivista. Un piano per rafforzare la crescita e stabilizzare l'economia, ma senza soldi e dettagli concreti. È un quadro in chiaroscuro con le tinte più cupe a prevalere, quello emerso dal G20 conclusosi a Cannes, con l'Italia che ha dovuto accettare il monitoraggio del Fondo Monetario, entrando così ufficialmente tra i paesi malati dell'Eurozona. Quell'Eurozona che non ha ottenuto gli attesi investimenti dai paesi emergenti e dalle altre superpotenze. Il presidente francese Nicolas Sarkozy, chiudendo il summit, ha sostenuto che i 20 grandi hanno concordato sulla necessità di incrementare le risorse dell'FMI, procedendo entro febbraio a una definizione dei passi necessari. Tuttavia, dettagli e numeri al momento latitano. Insomma, si tratta di parole, passi avanti concreti ancora non ce ne sono. Secondo la rete CNBC, il Fondo Monetario potrà fornire rapidamente denaro al Fondo Salva Stati Europeo una volta che il piano Salva Euro sarà chiarito ed elaborato. L'onere torna insomma sull'Europa, che dovrà convincere i partner della solidità degli accordi raggiunti a fine ottobre. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha confermato che nessun paese esterno all'Eurozona ha offerto contributi al Fondo Salva Stati comunitario. E anche la sbandierata proposta per una tassa globale sulle transazioni finanziarie non ha trovato consenso unanime tra i paesi del G20, come ha affermato e riconosciuto il presidente francese. Sarkozy spera che la tassa arrivi nell'Unione Europea nel 2012. Così, se la prima giornata di vertice è stata dominata dalla Grecia, la seconda ha avuto al suo centro l'Italia. Nella conferenza stampa finale sono giunti gli apprezzamenti di Sarkozy per gli sforzi messi in campo da Roma per rassicurare i mercati sulla tenuta del debito. L'Italia non è sola, questa è la base della solidarietà europea, ha affermato. Tuttavia è chiaro che l'Italia ha un problema che è mancanza di credibilità, ha affermato con toni duri il direttore generale dell'FMI Christine Lagarde, che ha garantito: verificheremo che le autorità italiane e l'Italia in generale faccia ciò che si è impegnata a fare presso l'Europa attraverso un'analisi indipendente. Abbiamo concordato con il Quirinale la nostra richiesta di certificazione all'FMI. Così il premier Silvio Berlusconi, sottolineando che il capo dello Stato si è fatto parte attiva nel dialogo con le istituzioni europee. Sentiamo. Si dice convinto della bontà delle misure contenute nel maxi emendamento, le approveremo entro novembre. Quanto alla speculazione internazionale, minimizza l'attacco ai titoli italiani, è una moda passeggera. Silvio Berlusconi rivendica dunque quanto fatto dall'esecutivo contro la crisi internazionale. Crisi, spiega il premier, che in Italia si sente fino ad un certo punto. I ristoranti sono pieni, gli aerei, bisogna con fatica si riesce a prenotare dei posti, i posti di vacanze nei punti sono assolutamente iperprenotati. Ecco, non credo che voi vi accorgiate che l'Italia senta un qualche cosa che possa assomigliare a una forte crisi. Certo, ammette il Presidente del Consiglio, con il cambio lira-euro si sono verificati degli impoverimenti di una fascia consistente della popolazione italiana. Altro capitolo è il ruolo del Fondo Monetario Internazionale nella delicata situazione del nostro paese. Il monitoraggio dell'FMI, dice Berlusconi, è una semplice certificazione esterna e l'abbiamo concordata con il Quirinale. Il Fondo Monetario Internazionale ci aveva anche offerto dei fondi. Abbiamo rifiutato questa offerta perché non riteniamo che sia necessario un intervento di questo tipo. Accanto a Berlusconi, il ministro dell'economia Tremonti, clima disteso e sorrisi tra i due, nonostante vivano ormai, secondo molti, da separati all'interno dello stesso esecutivo. Dal G20, spiega Tremonti, è arrivata la richiesta di impegno per le riforme. È un impegno di riforme molto intenso. Credo non ci sono precedenti. L'aiuto dell'FMI, dice ancora Tremonti, è utile e rende più chiaro l'impegno dell'Italia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo oggettivi, basta guardare lo spread dei bond italiani per capire che ci sono dubbi nei mercati sulla capacità dell'Italia di attuare le misure promesse all'Europa. Così il presidente della Commissione Europea, Giuseppe Barroso. L'Europa invierà una missione in Italia la prossima settimana. The point is, let's be objective. Il punto è che bisogna essere oggettivi. Ci sono effettivamente dei dubbi nei mercati sull'evoluzione degli spread in Italia. È un dato oggettivo. ed è per questo che ora l'Italia darà un'accelerazione agli impegni presi al vertice europeo. La Commissione europea è responsabile per l'attuazione degli impegni presi e infatti una missione sarà in Italia la prossima settimana. È un punto fondamentale per la credibilità degli sforzi. Oggi il governo italiano ha deciso di invitare il Fondo Monetario Internazionale per verificare trimestralmente l'applicazione degli impegni presi e la determinazione nel farlo. È importante per l'Italia dimostrare che è veramente impegnata nell'attuazione degli impegni decisi dal Presidente del Consiglio, nella lettera spedita al Presidente Van Rompuy e al sottoscritto. Oggi l'Italia ha deciso di invitare l'FMI e ha usato questa opportunità, essendo un membro del fondo. Ripeto che questa è una decisione che rafforza la credibilità degli sforzi e degli impegni. La situazione dell'Italia è completamente diversa dalla Grecia, lo afferma il presidente dell'Unione Europea Herman Van Rompuy. Secondo Van Rompuy, l'FMI verificherà ogni trimestre lo stato di attuazione delle misure promesse dall'Italia. We haven't put Italy in a corner, not at all. Non abbiamo messo l'Italia nell'angolo, assolutamente no. È stata l'Italia stessa a proporre di invitare il Fondo Monetario Internazionale a portare avanti il monitoraggio. Ed era già stato deciso nel contesto del Consiglio europeo il monitoraggio da parte della Commissione europea. Tutte le discussioni che abbiamo avuto con le autorità italiane sono state tenute in un clima molto sereno. Non c'era un'atmosfera da diktat, di imposizione. C'era invece un clima di cooperazione per migliorare e aumentare la credibilità del programma. La situazione italiana è completamente diversa da quella greca, assolutamente diversa. E le borse non hanno reagito bene alla conclusione del G20, pesanti le perdite, sentiamo. Le banche italiane tornano nella bufera sui listini azionari e completano nel modo peggiore una settimana per cuori forti sui mercati continentali. Il monitoraggio sulle misure italiane di riduzione del debito, imposto da FMI e dalla UE, ha ulteriormente alimentato le preoccupazioni sulla tenuta delle finanze italiane, riflettendosi sul settore bancario con perdite pesanti. Nel mirino soprattutto Unicredit, attesa a breve da una consistente ricapitalizzazione, che ha ceduto un altro 6,5% e che nell'ultima settimana ha lasciato sul terreno oltre il 13%. Male Popolare di Milano, che ha in corso un aumento di capitale da 800 milioni, meno 6% per l'azione dell'istituto milanese e meno 23% il bilancio da inizio settimana. La peggiore sul FTSE MIB però non è stata una società del settore bancario. Ansaldo STS ha perso il 7,3% prima di pubblicare conti sui 9 mesi che hanno evidenziato un calo dell'utile del 18%. Da Radio Corp per Radio 24, Andrea Fontana. Voltiamo ora pagina. L'Irlanda ha annunciato la chiusura delle sue ambasciate presso la Santa Sede, in Iran e nell'ufficio di rappresentanza Timor-Est, ma a far discutere è soprattutto il caso Vaticano. Dublino insiste, solo motivi economici, ma è innegabile che nella decisione di chiudere l'ambasciata presso la Santa Sede lo scandalo pedofilia abbia pesato e anche molto. 3 mesi fa il Premier ed il Parlamento irlandese avevano infatti severamente censurato la Chiesa di Roma, accusandola di sabotare le inchieste sui preti pedofili, mettendo i propri interessi davanti a quelli delle vittime degli abusi. Accusa respinta sempre con forza dal Vaticano, che il 25 luglio, fatto rarissimo in seguito alle polemiche, aveva però richiamato a Roma il nunzio apostolico a Dublino per consultazioni. Profondo disappunto è stato espresso dal cardinale Brady, primate d'Irlanda, avvisato con una semplice telefonata dal Ministero degli Esteri. Mentre per il portavoce Vaticano, padre Federico Lombardi, ogni Stato è libero di decidere in base alle proprie possibilità ed interessi, ma comunque i rapporti diplomatici non sono in discussione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si è aperto a Minsk il processo contro Alex Beliatsky, figura di spicco del Movimento per la Difesa dei Diritti Umani in Bielorussia. Natalia Raznia, giornalista di Minsk, che ha ricevuto l'asilo politico in Lituania dopo essere stata percossa e incarcerata a sua volta per aver denunciato la repressione nel suo paese, descrive così la figura dell'attivista al microfono di Gigi Donelli. Alesbia Bielyavskaya è uno dei maggiori difensori dei diritti umani in Bielorussia, è a capo della maggiore organizzazione che si occupa della difesa delle vittime della repressione in Bielorussia. Io sono una dei beneficiari, diciamo, dell'azione dell'organizzazione di Bielyavskaya. I miei genitori si sono rivolti alla sua organizzazione per arrivare a comunicare con un avvocato che mi ha aiutato durante il processo contro me. Il governo sta cercando di mettere a tacere le organizzazioni che si occupano di diritti umani in Bielorussia anche attraverso azioni legislative. Parlo anche delle nuove leggi che sono state applicate in Bielorussia e che proibiscono alle organizzazioni che si occupano di diritti umani nel nostro paese di ricevere aiuti dall'estero. Molte organizzazioni dei diritti umani bielorusse che avevano sedi o conti all'estero sono state colpite da questa legge. Spesso lo facevano per aggirare le maglie della repressione del potere e questo non è più possibile oggi. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.